Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. C'è ormai chi già parla di Internet of Everything. Insomma, dopo l'Internet of Things, l'Internet delle cose, c'è l'Internet di tutte le cose. Ed è una strada assegnata alle tecnologie che permettono di rendere smart un oggetto, quindi capace di comunicare e scambiare dati, anno dopo anno si moltiplicano e abbattono i costi. Tutti questi oggetti però hanno bisogno di energia per funzionare. Ad alcuni ne basta davvero pochissima, ma finora anche questa poca energia ha finito quasi sempre per richiedere un'alimentazione esterna oppure una batteria. E tutto ciò rappresenta una forte limitazione alla diffusione di queste tecnologie dell'Internet of Things. Ma una possibile soluzione è in arrivo, sviluppata da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano che lavoravano nel polo dedicato alle nanotecnologie dell'Istituto Italiano di Tecnologia e che a marzo del 2016 hanno deciso anche di fondare una startup che si chiama Ribestech per commercializzare una pellicola fotovoltaica ultrasottile in grado di generare energia anche in ambiente indoor. Ne parliamo con Alberto Iacchetti, che è amministratore delegato appunto di Ribestech. Buonasera. Buonasera. Allora, senta, partiamo proprio dalla tecnologia. Che cosa ci può dire del modo in cui queste pellicole vengono realizzate? Perché è un aspetto cruciale. La tecnologia è molto semplice, è una tecnica di stampa, ovvero partendo da inchiostri molto particolari sviluppati in vari centri di ricerca e anche all'interno dell'IIT, possiamo depositare con una stampante degli strati che sono conduttori o semiconduttivi e quindi con questi costruire una cella fotovoltaica. Che è appunto una specie di sandwich di vari strati. Esatto, sono 5 strati sovrapposti, ognuno depositato per stampa uno sopra l'altro. Ecco, qual è il vantaggio di questa vostra tecnologia rispetto ad altre tecnologie fotovoltaiche? I vantaggi nascono dall'essere appunto stampata, quindi stampare vuol dire poter fare celle fotovoltaiche su film di plastica, quindi che possono essere flessibili, molto leggere, possono essere stampate in forma libera, quindi adattarsi all'esigenza del designer o del prodotto, e sono interamente plastiche perché gli stessi strati, inchiostri che noi depositiamo sono delle plastiche e quindi il fine vita dell'oggetto sarà lo smaltimento con le normali procedure per la plastica. Non è un rifiuto speciale come tipicamente invece sono le celle fotovoltaiche. Non è un rifiuto elettronico dove bisogna poi separare i vari componenti, per esempio bisognerebbe separare il silicio dal resto. Ecco, un altro aspetto importante su cui vi siete concentrati è il funzionamento di questo dispositivo anche al chiuso, in un ambiente indoor. Sì, perché ci siamo accorti che con la luce artificiale i nostri moduli funzionano anche meglio delle tecnologie classiche. Questo perché essendo basate su una tecnologia organica, quindi di sintesi, noi possiamo utilizzare l'inchiostro che assorbe esattamente la luce emessa da una lampada artificiale. Ecco, che è diversa dalla luce che invece normalmente ci arriva dal sole. Ecco, veniamo quindi alle applicazioni. Abbiamo capito intanto che l'ambito dell'indoor è un ambito interessante. Quali sono quelle che più promettenti dal vostro punto di vista? Sì, al momento stiamo lavorando nella domotica, quindi nell'utilizzo di dispositivi in ambiente domestico per il controllo delle condizioni, riscaldamento, condizioni ambientali, accessi e via dicendo. E poi in ambito sempre automazione ma più commerciale, sistemi di controllo e di posizionamento delle persone all'interno degli edifici oppure di controllo degli oggetti, delle merci nei magazzini, quindi questo tipo di controlli. Un'altra applicazione secondo me molto interessante è anche è nelle reti di dispositivi, di sensori diffuse che in ambito di smart cities o di controllo del territorio possono permettere di posizionare dei sensori che possono monitorare condizioni critiche come la stabilità di una struttura oppure parametri ambientali e quindi realizzare una rete di sensori che raccolgono dati ed è indipendente perché è alimentata dalla nostra tecnologia. Naturalmente specifichiamo, non è che sparisca del tutto la necessità di avere una piccola batteria a bordo di questi oggetti, no? Perché come sappiamo la luce, diciamo, non è sempre presente. No, la batteria serve per alimentare i dispositivi quando la cella non è illuminata, però la batteria al momento determina la vita dell'oggetto che si va a posizionare, ovvero l'oggetto vive fino a quando c'è carica nella batteria. La batteria nel nostro caso diventa invece un sistema di backup, quindi viene mantenuta carica dalla cella, questo allunga il tempo di vita dell'oggetto e riduce la dimensione della batteria di parecchio, di centinaia magari anche di volte. Dunque Iachetti, a che punto siete del vostro percorso di startup? Noi abbiamo sviluppato la tecnologia, siamo in grado di produrre con le nostre stampanti i pannelli fotovoltaici, una prima piccola produzione, e stiamo sviluppando delle preserie con alcuni partner. Va bene, grazie allora Antonio Iachetti. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani, buona serata.